Allora, come si trova a Tione? Come mi trovo a Tione? Sì, oppure sei in zona così. Cioè, sono a Bolbeno. Sono ah, e come si trova? Male, io mi trovo più bene a Tione. Sì? Sì, sono nativa di Tione. Cosa ne pensa dei giovani? Che dovrebbero essere più intelligenti, scusate. No, scusatemi. Ha ragione. Giusto. Ecco, dovete tenere pulito il coso, che adesso avete il vizio da prendere e buttare tutto per terra, fare tante cose che non bisognerebbe fare. Ah, sapete. Secondo lei i giovani cosa ne pensano degli adulti? Non hanno tanto rispetto per gli adulti, lo sapete? Non sarete tutti uguali, sì, per l'amore del cielo, per fortuna. Sì. Però parecchi non hanno tanto, purtroppo. Non sono educati con gli anziani.